è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:37 minuti in questo momento. I numeri di telefono per chiamarci in diretta: il numero verde 800 24 0024, sms 349 238 6666, la Zanzara @radio24.it. Andiamo subito con i telegiornali TG2. Febbre suina, l'Organizzazione Mondiale della Sanità non esclude che presto si arrivi alla massima allerta. Ancora morti in Messico, confermato un caso in Spagna. L'ondata di maltempo si è spostata verso il centro-sud. Per il forte vento, 2 morti in Sicilia. Al nord, allagamenti e neve a bassa quota. Pericolo valanghe. Secondo l'Istat, lo scorso novembre la popolazione residente in Italia ha superato la soglia dei 60 milioni. Eravamo 50 milioni nel 1959. Decisivi gli immigrati. A Basilea, in Svizzera, una dipendente è stata licenziata perché mentre era in malattia per emicrania usava Facebook. Per l'azienda, se era in grado di navigare in rete, poteva anche lavorare. Beh, insomma, non so come la pensate voi, ma in realtà uno anche con 38 di febbre, magari con una clavicola rotta o con chissà quale tipo di malattia, può stare tranquillamente a letto e ogni tanto mandare un messaggio su Facebook o un messaggio attraverso le mail. Adesso non bisogna nemmeno esagerare, come sembra, perché poi i racconti delle cronache possono essere diversi dalla realtà, come sembra abbia fatto questa azienda in Svizzera. Studio aperto. Dopo aver ucciso più di 100 persone in Messico, la febbre suina sbarca in Europa. Primo caso in Spagna. L'Italia per ora è risparmiata. Falso allarme per alcuni turisti, ma sale il livello di allerta. Attivato un numero verde. Ecco i consigli degli esperti. La Farnesina: limitare i viaggi nelle zone a rischio. Il presidente Obama getta acqua sul fuoco, ma l'Organizzazione Mondiale per la Sanità potrebbe alzare il livello di allerta. In molti paesi scatta il panico, con la corsa alle mascherine protettive come ai tempi della SARS. Persino le borse tornano in affanno. Da nord a sud, l'Italia spazzata da vento e temporali. In Sicilia si contano anche 2 vittime. Paralizzato per ora l'aeroporto di Palermo. In Liguria, paesi bene, isolati. 18:39, 800 24 0024, il numero di telefono per chiamarci in diretta. Io non lo so come andrà a finire questa storia della febbre suina, però ricordo le tante epidemie mancate che certo hanno mietuto vittime, ma non come era stato previsto dalla stessa Organizzazione Mondiale della Sanità: l'aviaria, la SARS, la mucca pazza, eccetera eccetera. Ricordo anche un bel articolo del vice direttore del Corriere della Sera, Pierluigi Battista, dell'agosto del 2008, la fabbrica delle emergenze. D'un tratto sembra che i cani più feroci si siano messi d'accordo per sbranare padroni e passanti, e l'emergenza pitbull, e poi l'emergenza mala sanità ogni volta che muore qualcuno sotto i ferri, l'emergenza siccità e l'emergenza alluvioni, l'emergenza global warming, e poi naturalmente l'emergenza SARS dimenticata, l'emergenza mucca pazza, tomba delle bistecche collosso, l'emergenza aviaria, che secondo le attendibili stime dell'Organizzazione Mondiale avrebbe già dovuto mietere un numero incalcolabile di vittime umane. Insomma, non è difficile prevedere che tra qualche giorno queste emergenze non saranno più emergenze. Filippo Facci, questa mattina, Mediaset. Sembrerebbe quindi che l'Organizzazione Mondiale della Sanità e i giornalisti di professione diffondano il panico. C'è una giornalista stamattina alla radio, Manuela Falcetti, che chiedeva a un esperto: dottore, ho una sorella a Udine che ha la tosse, mi devo preoccupare? La verità è che abbiamo, come si dice, altri problemi da porci. E va bene, Facci chiudeva con questo gioco di parole, però effettivamente, andando a riprendere qualche stralcio di questa molto seguita trasmissione la mattina presto di Emanuele Falcetti su Radio 1, Istruzioni per l'uso, forse alcuni di voi la conoscono, il tono è quello dell'apocalisse, il tono è quello insomma della, non dico della disperazione per carità, ma insomma della emergenza. Sentite, intervista Pregliasco, uno dei virologi più sentiti, poi c'è sempre un certo numero di esperti che in questi casi vengono ascoltati. Intanto Fabrizio Pregliasco, tutte le istruzioni chiare su questo argomento. Non ci tenga nascosto niente o non ci dia la sensazione di tenerci nascosto qualcosa, perché questa è la paura più grande. Beh, insomma, avete sentito? Non ci tenga nascosto nulla, come se ci fosse qualcosa o qualcuno che tiene nascoste delle cose. E poi il passaggio sulla sorella. Insomma, mia sorella ha la febbre. Che bisogna fare? Purtroppo la malattia ha le stesse caratteristiche dell'influenza normale, stagionale, quella, la vera influenza, quella che inizia con febbre alta, dolori muscolari, articolari, sintomi respiratori, a volte qui ci sono anche forme gastroenteriche che sono state segnalate, ma anche congiuntivite, quindi la malattia di per sé è come dire, per fortuna in questo periodo finita per quanto riguarda la sua stagionalità, e quindi non dovrebbe esserci una, come dire, un panico che sarebbe ingiustificato, perché come diceva giustamente il professor Poli. Allora, le faccio un esempio pratico. Io ho mia sorella, vive a Udine. Ieri sera mi ha detto: ho la tosse, ho un po' di influenza, sto poco bene, deve stare tranquilla. Assolutamente sì, si tratta. Insomma, di... certo che deve stare tranquilla. La febbre a Udine, la sorella della Falcetti. Insomma. Il tono spesso è questo qui: 18:43, 800 24 0024. Dopo le parole di Berlusconi pronunciate il 25 aprile, si è aperta una discussione, se volete anche noiosa, sul nuovo Berlusconi che ha rivalutato la resistenza, eccetera, eccetera. E Franceschini che cerca di fare polemica politica su questa vicenda qua, e adesso allora non bisogna cambiare la Costituzione a colpi di maggioranza, che non capisco cosa c'entra con la resistenza. Comunque, insomma, una discussione anche a tratti seria, se volete, forse noiosa per la maggior parte delle persone che ci ascoltano, che certo non è che pensano alla resistenza ogni giorno. Eppure il nostro Antonio Di Pietro non trova di meglio che dire: no, noi non ci stiamo, Berlusconi vuole cambiare la Costituzione perché vuole rifare la P2. Io dico che basta questa citazione continua della P2, diventa quasi una sorta di refrain, credo voluto, da parte di Di Pietro. Noi dell'Italia dei Valori non abbiamo alcuna intenzione di affidare a Berlusconi la riforma della nostra Costituzione, perché egli già ha in mente qual è la riforma possibile, quella del piano rinascita della P2. Il piano rinascita della P2, io credo che il piano rinascita della P2 non abbia mai trovato così tanti politici a citarlo, questo piano della rinascita della P2, come negli ultimi 6-7 mesi. Credo che sia stato citato almeno 3-4 volte al mese, con preminenza del gruppo dell'Italia dei Valori. Vorrei concludere con Francesco Storace, perché intervistato da Lucia Annunziata dice una cosa: io mi sento, e vorrei capire da voi come vi sentite, io mi sento un democratico che però non sente l'obbligo di essere antifascista. Rimane la domanda: siccome qui stiamo parlando di etichette, lei si considera oggi un neutrale antifascista o uno che rispetta ancora la differenza? Un democratico che non sente l'obbligo di essere antifascista, si accontenta. Democratico che non sente l'obbligo di definirsi antifascista. Monio Vadia dice una cosa che non è del tutto sbagliata, anche se poi certo c'è sempre una raffigurazione un po' clownesca di Berlusconi da parte di Ovadia, non solo da parte di Ovadia, che dice, insomma, Berlusconi è tutto, è antifascista come anticomunista. Sentite, interessante. Berlusconi fa la sua parte e risponde a quell'Italia, come se lui dicesse: cosa volete da me? Io rappresento quell'Italia che mi vuole. Perché siete tanto ostinati? E adesso vi dimostrerò che io posso essere anche antifascista. E poi sono obamiano e sono filo Putin allo stesso tempo e sono filo Bush. Lui è tutto. Prima di dare la parola agli ascoltatori, sentiamo roba di televisione, una litigata tra Renato Brunetta e Daria Bignardi, programma L'Era Glaciale su Rai 2, venerdì. Tutto nasce dal fatto che a un certo punto, in una citazione, la Bignardi si sbaglia e Brunetta si arrabbia parecchio. Dopo la carriera universitaria a Padova arriva il primo incarico romano alla Fondazione Brandolini, dove si occupa. Cosa leggo dice? Il suo libro, pagina 11. L'hanno scritto Brodolini. Uffa. Il padre dello Statuto dei Lavoratori. Ma sì, Brandolini, Brodolini. Ma cosa dice? Ma non sono queste le cose che contano. La cosa posso dire? Sì. Lei in questo momento ha detto una bestemmia. Oddio, mi dispiace. Allora, Giacomo Brodolini. Ammetto ministro del lavoro, il padre dello statuto dei lavoratori, morì di cancro mentre stava facendo approvare una legge fondamentale per i diritti dei lavoratori. Mi dispiace molto. E guardi, io ho diretto per 20 anni la fondazione dedicata a questo grande italiano, e mi dispiace che è proprio una persona sensibile davvero. Come lei abbia detto no, cosa ma sarà mai. Figuri, la mia era una battuta, massimo rispetto. Ma evidentemente e non mi lo conosce. No, non lo conosco, l'ammetto. Lo ammetto, però io volevo arrivare a un'altra cosa. Se fosse la mia allieva la boccerei. Meno male che non lo sono. Vabbè. Beh, da qui nasce poi un diverbio. In realtà la cosa significativa non è tanto la litigata in diretta tra Daria Bignardi e Renato Brunetta, che non so nemmeno se fosse in diretta poi, quanto piuttosto quella frase pronunciata dalla conduttrice del programma, Brodolini, insomma non fa differenza, non è importante. E lì Brunetta dice, ma come non è importante? Il padre è lo studio dei lavoratori. E spesso è una tendenza che abbiamo noi giornalisti, da questo punto di vista non c'è dubbio, a, se volete, tralasciare alcune cose, a non dare importanza alla precisione di alcune citazioni. Secondo diverbio. Era un archivio dietro la mia stanza, c'era un lettino di quelli che sai perché mi ha colpito? Perché sì. Ho immaginato che un dipendente pubblico faccia la stessa cosa, lei non sarebbe contento. Ma quello non è mica un ente pubblico. Certo, però... Quello è un ente privato. Quindi cambia sostanzialmente. Totalmente. Allora quando si dice privatizziamo il pubblico perché così mai, diventa più efficiente... Io non ho mai detto. Quindi lei non è d'accordo con chi... Vuole se lei avesse letto il libro? Beh dai, però ministro, sia tranquillo, il libro l'ho letto, l'ho anche non detto ha letto che mi è bene, piaciuto. Non vabbè, ha letto ma non faccia bene, il professore con me. Però. Non ha letto bene. Guardi che sono per capace anch'io di fare le battutine. Le facciamo? No, ma sì. Lo sto facendo, non l'ha letto fare. Bene. Va bene, andiamo a Roma. Massimiliano, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Dica. Volevo parlare, un piccolo intervento a proposito del G8, lo spostamento dalla Maddalena all'Aquila. A parte che è la seconda volta, diciamo così, che la sede, il fatto che sia fatto alla Maddalena sono messo, diciamo così, attaccato, se non altro dal fatto quando si parlava di spostarlo a Milano, in coincidenza ai lavori che dovevano essere fatti per No, guarda Massimiliano, non mi risulta che si è parlato di Napoli a un certo punto, ma Milano, forse anche di Milano, non lo so, non ricordo. Dunque, di quale seconda volta sta parlando? No, quella di Milano, dicevo. Ma comunque, insomma, ecco, quello che volevo dire è che secondo me il fatto che, insomma, di spostarlo non è una cosa, diciamo così, intelligente ed economica, anche perché già i lavori lì erano stati fatti, diciamo, in parte, quell'opera rimane a metà e secondo me il fatto di doverlo riorganizzare all'Aquila ci costerà un... di nuovo una barca di soldi probabilmente che potevano essere utilizzati diversamente, non ultimo proprio per le persone. Guardi, non lo so, i conti come al solito si fanno alla fine in questi casi, per cui vedremo, insomma, se l'interruzione di alcuni lavori, che però pare non saranno interrotti, i soldi che comunque verranno spesi all'Aquila, ci informano, ci dicono le fonti ufficiali che in realtà c'è un risparmio per la sicurezza, eccetera, eccetera, vedremo naturalmente il conto finale, se qualcuno poi sarà interessato a conoscere le cifre. Franco da Monza, buonasera. Sì, salve Cruciani. Buonasera. Io volevo sapere il suo parere, cosa ne pensava lei su Gioacchino Genchi, che praticamente il Tribunale del Riesame gli ha ridato tutti i suoi reperti informatici e dati sequestrati. Sì, li ha dissequestrati, però c'è un ricorso, eh? No, però il problema è questo. Cosa succede? Che i PM romani hanno solamente dato una minima parte di quei dati sequestrati. Mm. Cosa ne pensa lei di questo fatto? Guardi, non entro nel dettaglio perché non conosco bene la vicenda. So solo che è una vicenda ancora in corso d'opera, come si suol dire, e anche qui i conti si faranno alla fine. Io certamente di tutto l'operato e tutta l'esposizione mediatica di Gioacchino Genchi penso tutto il male possibile, l'ho già detto in più occasioni, non ho il piacere o la sfortuna, non lo so, dipende dai casi, di conoscere Gioacchino Genchi, dunque non le posso dire, non ho un giudizio sulla persona. Ne abbiamo già parlato altre volte, penso che l'esposizione mediatica sia stata eccessiva e che questo... E l'appropriazione della figura di Gioacchino Genchi da parte di alcune personalità politiche sia assurda, e la figura di Gioacchino Genchi mi pare francamente un po' ambigua. Poi vedremo sulla questione dei famosi dossier sequestrati e dissequestrati come andrà a finire. Carlo da Palermo, buonasera. Buonasera. Dica. Molto rapidamente, influenza suina. mi si sono rizzati i capelli in testa stamattina perché due esperti hanno detto due cose molto diverse. Il primo, sulla trasmissione in televisione della Rai, di cui, Rai 3, di cui sfugge il nome, era abbastanza contestato da Renzi del Codacons, diceva basta cuocere la carne di maiale sopra gli 80 gradi, il problema a quel punto si risolve. Un altro esperto alla radio, e se non ricordo se era Radio 24 o Rai, dice invece che assolutamente il contagio non può essere preso attraverso il cibo, negli insaccati, nelle bistecche, e andiamo tranquilli soltanto attraverso l'aria, col respiro, eccetera. Tutte e due si qualificavano come esperti. Questa cosa mi ha preoccupato parecchio. Carlo, lo capisco, perché come al solito in questo bailam di pareri, informazioni, esperti che si succedono in maniera continua, intervistati da tutte le televisioni, tutte le radio, tutti i giornali, capita di poter incontrare due pareri diversi e contraddittori da questo punto di vista. Noi non facciamo istruzioni per l'uso, dunque non vi diremo assolutamente nulla a riguardo, facciamo delle osservazioni che riguardano il dilagare semplicemente della, se volete, della paura, del timore e anche della, dell'informazione che incute paura e di quell'informazione che terrorizza, come è successo questa mattina, lo risentiremo, quando una conduttrice di una fortunata trasmissione radiofonica ha detto: ma insomma, mia sorella ha la febbre, sentite, che deve fare? Io ho mia sorella, vive a Udine, ieri sera mi ha detto ho la tosse, un po' di influenza, sto poco bene, deve stare tranquilla. Assolutamente sì, si tratta degli ultimi sprazzi del periodo di passaggio. Quindi ci sono ancora delle influenze, non abbiate paura. Beh, insomma, lo stesso fatto però di porre la domanda mette, se volete, nella preoccupazione chiunque in questo momento abbia un po' di febbre. Gennaro da Caserta, buonasera. Buonasera. Dica. Ecco, io volevo intervenire sul tema che ha lanciato lei poco fa, la diatriba tra Di Pietro e Berlusconi, insomma. No, non c'è nessuna diatriba, ho semplicemente fatto ascoltare quello che ha detto Di Pietro l'ennesima volta che ha citato la P2 a proposito di Berlusconi. Sì, effettivamente era quello sì. Il tema. Che voleva dire lei? Io tendenzialmente sono un po' d'accordo con Di Pietro. E Ci sta anche questo, non c'è nulla di male. Insomma, no. Sì, perché in effetti piuttosto che... Cioè lei pensa che sia in corso una sorta di restaurazione del progetto della loggia P2? Ma non precisamente questo, un consolidamento di una lobby economica politica che di fatto esiste già a tutti gli ordini. E quale sarebbe questa lobby economico politica? Sono comitati d'affari che si instaurano su tutto il sistema economico pubblico. Il discorso privato. Sarebbe lungo, Gennaro, lo riprendiamo dopo se vuole. Non riesco a capire il comitato d'affari. Le lobby esistono e sarebbe il caso che in Italia diventassero più trasparenti, ma questo è un altro discorso. Cosa c'entra la citazione continua della P2? Andiamo subito a sentire i titoli del TG3. In Spagna primo caso di febbre suina, 149 morti in Messico, l'OMS verso il massimo livello di allerta, l'Europa e i viaggiatori evitino le zone a rischio. In Italia i rischi sono insignificanti, dice il ministro Frattini, rientrato il caso di contagio a Venezia. La Farnesina sconsiglia viaggio in Messico. Fini il diritto alla salute anche per i clandestini, giusto lo stop alla norma sui medici spia, e la sua fondazione attacca il PDL, no alle candidate veline. Franceschini è debole, il governo ha tradito il mezzogiorno, spese al nord le risorse destinate al sud, piano per aiuto per 100.000 laureati. È arrivato il sì dei sindacati americani all'accordo Fiat Chrysler, ora mancano le banche, piano di riassetto per General Motors. Due morti in Sicilia per le violente raffiche di Scirocco, un uomo ucciso da un ramo a Palermo, un altro schiacciato da un cancello vicino a Messina. È morta la nostra collega Ilda Bartoloni, ideatrice e conduttrice di Punto Donna, da sempre impegnata nelle battaglie femminili e nella difesa dei più deboli. Va bene, erano i titoli del TG3, niente di particolarmente travolgente, andiamo a sentire Sky. Febbre suina, 149 morti sospette in Messico, l'OMS non escluso il massimo livello di allerta. 40 contagi negli USA, Obama dice preoccupazione ma nessun allarme. Un caso in Spagna, Frattini rassicura, in Italia rischi insignificanti. Vertice sui rifiuti a Napoli, Berlusconi, benissimo il termovalorizzatore di Acerra. Fiat, intesa trovata con i sindacati americani, l'accordo con Chrysler è a un passo. In Italia oltre 60 milioni di residenti, le donne superano gli uomini, crescono gli immigrati. Due condanne per il sequestro PIN, pena di 30 e 17 anni ai carcerieri. Vento e pioggia sferzano l'Italia, due vittime in Sicilia, disagi anche al nord-ovest. Il principe Carlo alla Camera, saluto in italiano e invita a un nuovo sforzo sul clima. Recriminazioni e frecciatine, Berlusconi e Moratti accendono il derby per lo scudetto. Eccoci, 1920 800 24 0024, il numero di telefono per chiamarci in diretta. Dove andiamo? Andiamo a sentire Emanuela Falcetti, conduttrice di un programma radiofonico su Radio 1, istruzioni per l'uso, chiedere a un certo punto a un interlocutore che era Fabrizio Pregliasco, virologo, ma insomma, mia sorella a Padova ha la febbre, deve preoccuparsi? Io ho mia sorella, vive a Udine. Ieri sera mi ha detto ho la tosse, un po' di influenza, sto poco bene, deve stare tranquilla. Assolutamente sì, si tratta degli ultimi sprazzi del periodo di passaggio. Quindi ci sono ancora delle influenze, non abbiate paura. Influenzali. A Udine, tra l'altro, non a Padova, come ho detto prima, della serie mettere un po' di allarme e non ce n'è bisogno. Dare Bignardi e Renato Brunetta, insomma, il pezzo di Brandolini, Brodolini. Cosa leggo dice? Il suo libro, pagina 11. L'hanno scritto Brodolini. Uffa. Il padre dello statuto dei lavoratori. Ma sì, Brandolini, Brodolini. Ma cosa dice? Ma non sono queste le cose che contano. Queste le cose che contano, oppure no? Lo chiedo a voi, essere da conduttore di un programma precisi sulla citazione di un nome, oppure la sostanza è la stessa. Dove andiamo? Andiamo a sentire Moni Ovadia perché? Andiamo a sentire perché c'è tutta una discussione, come sapete, su Berlusconi, il discorso del 25 aprile, la presenza di Berlusconi il 25 aprile con le frasi che ha detto: non tutti sono uguali, non si può parificare la Repubblica di Salò più o meno alla Resistenza. E allora, dopo aver detto Ovadia, Berlusconi è tutto, sentiamolo su Tremonti e lo stesso Berlusconi. Che cosa dice Moni Ovadia? Dice: hanno la faccia come? Possono anche dire che sono antifascisti, come dice che è obamiano. Adesso lui è obamiano, come il suo ministro dell'economia che ha starnazzato liberismo, adesso denuncia il mercatismo. Hanno la faccia come il culo, non gliene frega niente. L'importante è conservare potere e privilegio. Questa è l'unica cosa che gli interessa. E allora che il 25 aprile, e noi cosa dobbiamo fare? Abbiamo detto che il 25 aprile è la festa di tutti gli italiani e loro sfrutteranno questa cosa e noi staremo lì, cosa possiamo dire? Il Presidente del Consiglio viene su un palco del 25 aprile, non possiamo mica metterci a far casino, perché se no loro mediaticamente lo sfrutteranno e diranno: noi siamo venuti a festeggiare l'antifascismo, ma loro sono i comunisti, faziosi, intolleranti. E così. È così. Moni Ovadia scatenato, d'altra parte non ci vuole molto per far scatenare Moni Ovadia contro Berlusconi. Anche la presenza di Berlusconi il 25 aprile viene interpretata in questa chiave da Moni Ovadia e pongo a voi questo interrogativo. Anche voi l'avete interpretata in questo modo, come un Berlusconi che è capace di dire tutto e il contrario di tutto. Ritorniamo dall'ascoltatore di Caserta, Gennaro. Buonasera. Buonasera, eccomi. Allora. Sì, Noi ci siamo persi anche Di Pietro e la P2, vogliamo risentire pure Di Pietro, dato che per carità, ci vogliamo far mancare l'ennesima citazione della P2 da parte di Di Pietro? No. Non sia mai, sentiamo. Noi dell'Italia dei Valori non abbiamo alcuna intenzione di affidare a Berlusconi la riforma della nostra Costituzione, perché egli già ha in mente qual è la riforma possibile, quella del piano rinascita della P2. Secondo me Di Pietro non sa nemmeno che cos'è il piano rinascita della P2, non l'ha mai letto sul serio, però vabbè, insomma, questa è una mia cattiveria, per carità. Sì, ma è probabile che molti italiani, me stesso, non sappiamo cosa fosse esattamente la P2. E allora perché lei dice che è d'accordo con quello che sostiene Di Pietro? No, io sono d'accordo più che altro con il timore di Di Pietro di col dare timore nelle mani di Berlusconi la riforma della Costituzione. Perché la nostra Costituzione è un po' un documento madre di tutta la tutela della libertà e dell'individualità italiana. Ma nessuno ha mai avuto come progetto quello di cancellare la prima parte della Costituzione o di stravolgerla, insomma, ma al massimo si vuole intaccare la forma di governo, cioè che è una cosa diversa. Sì, può darsi che sia così, la stessa legge elettorale è stata rimaneggiata più volte. Però non c'entra niente la Costituzione con la legge elettorale, eh? Sì, sì, sì, no, ma quello che preoccupa me... Cosa la preoccupa? Vorrei capire cosa la preoccupa. È il fatto che... L'esistenza di Berlusconi, cosa la preoccupa? No, l'esistenza di questo modo di agire, il governo, che ha come ostacolo le leggi. Governo che ha come... Questo è curioso, il governo che ha come ostacolo le leggi, che vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui il governo si è messo in testa di fare una certa operazione... Sì. Aggiusta una legge perché gli consenta di farlo nella legalità. Per esempio? Per esempio, sono vari casi che adesso non sto via, non mi ricordo esattamente. Vabbè, se ne ricordi uno, altrimenti così diventa. Per dirne una, la depenalizzazione. Il lodo Alfano è un'altra cosa, uno lo può criticare fino alla morte il lodo Alfano, che c'entra qui? Non la stiamo... depenalizzazione del falso in bilancio. Ma non è che in questo caso lei dice, lei parla, insomma, lei teme che il governo Berlusconi, perché in un modo o nell'altro ci sono sempre leggi ad persona, ma questa è la sostanza. Ma se vogliamo definire ad persona, ma non lo so, mi dica, perché è lei che ha iniziato. Secondo me è anche discorso. Riduttivo definirle come la vogliamo definirle invece? Ad interessa, so, vabbè, insomma, cioè Berlusconi si fa gli affari suoi. Io vorrei capire la sostanza del suo ragionamento. Non la sto. Cioè non... Perché Berlusconi si fa gli affari suoi, su questo ormai penso sia assodato, è chiaro. Vabbè, è chiaro, il Parlamento cioè... è al servizio di Berlusconi e si occupa dei suoi interessi. E dunque lei ha paura in realtà dell'esistenza stessa, come dicevo io, cioè l'esistere stesso di Berlusconi, no, come capo del governo. Contro Berlusconi, contro il PD, non sono contro nessuno. Ho capito, lei un po' contro Berlusconi è, però perché in Italia è stata sempre garantita ed è stata costituita da una guerra, da una lotta partigiana. Sì, lei però mi scusi, sta passando dalla guerra partigiana alle leggi ad personam di Berlusconi. Facciamo un po' di chiarezza, non facciamo confusione. Che c'entrano le due cose? Non ho capito. Che c'entrano le leggi ad personam con la Costituzione? Mi perdoni. Perché la stessa Costituzione potrebbe diventare una Costituzione ad personam. Ah, ho capito. Ecco, ho capito. E quella è la paura di Pietro, che dice lui metterà su un comitato nascosto, vabbè, segreto, che garantito costituzionalmente controlla. Non lo smuoverà più nessuno. Non lo smuoverà perché... più nessuno. Vabbè, no. Ognuno vede la politica con i propri occhi e con le proprie idee. La ringrazio, Gennaro. Mauro da Mantova. Buonasera dottor Pisani. Dica. Scusi un attimo che sono sotto la tempesta, devo trovare. Lo so, piove molto, piove molto. Lei è in macchina? Ma sono appena uscito dalla macchina, però mi sa che certo, altrimenti no, non sarebbe sotto la pioggia. Ecco, era solo per intervenire su quel frammento di trasmissione della Falcetti. Sì, guardi, si metta a riparo, più tranquillo, facciamo passare qualche secondo, poi torno subito da lei, così sentiamo meno rumori, meno pioggia, lei si ripara, è più tranquillo. Una delle frasi del giorno, l'allarmismo di Emanuela Falcetti, Radio 1. Io ho mia sorella, vive a Udine. Ieri sera mi ha detto ho la tosse, ho un po' di influenza, sto poco bene, deve stare tranquilla. Assolutamente sì, si tratta degli ultimi sprazzi del periodo di passaggio. Quindi ci sono ancora delle influenze, non abbiate paura. Influenzali. La febbre della sorella della Falcetti a Udine. Vi leggo le ultime notizie, Organizzazione Mondiale della Sanità verso la massima allerta, quasi 150 morti per il virus, 3 casi accertati in Europa, tra cui l'ultimo in Scozia. 2 malati in Scozia, 1 a Madrid, quelli accertati. Va bene, Mauro da Mantova si è messo a posto, a riparo, tranquillo? Sì, grazie. Eccoci. Scusi ancora. Mi scusi lei, dica. No, niente, prima di tutto un ringraziamento a lei e al suo gruppo di lavoro per avermi dato appunto l'opportunità di commentare questo... Andiamo avanti, basta complimenti. Dica. Allora, volevo... Parlavo appunto di quel frammento della trasmissione della Falcetti, ecco. Secondo me, secondo il mio giudizio, ascoltato nella sua trasmissione, secondo me tentava di far chiarezza e informare i cittadini più che creare panico. E siccome poi l'esperto che stava lì con lei, stava intervistando, gli ha spiegato che i sintomi di questa influenza suina, se si chiama così, sono molto simili a quelli dell'influenza comune, allora lei ha citato come esempio la sorella. Io non ci ho visto questo personalmente, poi per l'amor di Dio, io non non sono un appassionato della Falcetti, ascolto Radio 24, per cui no, ma ho capito quello che vuole dire, ma certamente non è che ci fosse l'intento di terrorizzare, però certo, se uno fa l'esempio della sorella Udine che c'ha la febbre, immagino le tante persone che magari hanno la febbre che si possono chiedere, magari ho preso l'influenza suina o il virus dei suini, insomma, no, non è l'esempio migliore per dire, insomma, uno che ha la febbre può stare tranquillo, ma certamente può stare tranquillo, o no? No, su questa ragione, questo sicuramente anche il metodo non è stato quello dei migliori, su questo è giusto, però le porto il mio esempio, io amo diciamo seguire le notizie soprattutto da internet ma anche per radio così, e io giusto tra ieri e oggi ho registrato una discrepanza di informazione riguardo a questa influenza suina, io sono un cittadino comune, non sono uno scienziato, però stamattina facendo colazione ho guardato in internet così sul sito di Repubblica e da lì, da un articolo sull'influenza suina si evinceva che questo OMS non è in grado, cioè sono particolarmente preoccupati di questa influenza perché non hanno ancora capito come combatterla. E poi nel corso della giornata con altre informazioni, altri giornali, adesso onestamente guardi non lo so fare. No, vabbè, questo però non significa che ci sia un'informazione sbagliata, significa semplicemente che quando ci sono delle cose nuove, diciamo anche dei fenomeni sconosciuti o che si presentano per la prima volta, ci vuole un po' di tempo prima di capire, prima di orientarsi anche da parte degli esperti. Qui io non ci vedo niente di particolarmente strano. L'unica cosa che bisogna evitare è il tono di eccessiva drammatizzazione, ma d'altra parte è quasi inevitabile in questi casi, se ci ricordiamo tutte le precedenti epidemie, tra virgolette, o allarmi, ci sono state perdite in borsa oggi da parte di Autogrill per alcuni motivi specifici legati appunto a questa situazione, e anche le compagnie aeree. Sono tutte cose abbastanza normali in questo caso. E inevitabili quasi, direi. La ringrazio e andiamo a Bari da Domenico. Domenico, mi sente? Sì, la sento bene, buonasera. Buonasera, dica. Allora, io sono uno di quelli che non si lascia, diciamo, abbindolare dalle notizie, diciamo, quelle del momento, no? Quelle che devono creare allarme, la febbre suina, la SARS. Queste servono un po' a tenere buone, a occupare la gente, a tenerli occupati su questi temi, insomma. Invece voglio parlare Lei di una vede cosa. Addirittura una regia dietro l'informazione, cioè occupiamoci oggi, scateniamo l'emergenza del virus dei suini. L'emergenza c'è, però lei si ricorda. Ho capito, ma chi è che sta dietro questa regia? No, non ho detto che c'è una regia, non siamo a questi livelli, però allora voglio dire, i mezzi di informazione, insomma, cavalcano queste notizie e sta bene a qualcuno che siano cavalcate. E perché? Dire. Mi scusi, non ho capito. Cioè, chi ne trae vantaggio? A parte forse le aziende che vendono dei prodotti commerciali che in questo periodo, magari con lo svilupparsi di una crisi di questo tipo, possono essere venduti. A parte questi aspetti che certamente possono, ci sono. Che so, per esempio, avvantaggiare qualche casa farmaceutica. Vabbè, sì, questo può darsi, ma insomma è tutto da vedere. La butto lì. Sì, no, ma questo non è un ragionamento assurdo. Però voglio dire, queste notizie così, diciamo, allarmanti, oppure, che so, le notizie quelle morbose su specifici fatti di cronaca, molto di delitti efferati, eccetera, tengono occupate determinate persone, lei lo sa meglio di me. No, no, veramente non lo so, lei ride, ma io non lo so. Lei ha un ghigno quando dice presentare certe notizie serve a qualcuno, io francamente rido per altri motivi, perché non capisco dove vuole andare a parare. Lei pensa che tutta l'informazione sia guidata dall'alto, e le scalette dei telegiornali siano fatte in modo da orientare l'opinione pubblica verso una direzione, non si capisce quale però. Vabbè, il tema non è questo. E qual è il tema? Cambi tema che è meglio. Dica. Ah sì, cambiamo tema. Io volevo parlare del discorso in quota, cioè che cosa significa questa parolina. Nel discorso senso che, in quota, non ho capito. Che so, manager pubblici della RAI, manager delle ASL, che so, esiti di scuola, cioè molte volte sente dire quel signore lì è in quota al... Sì, sì, certo, quando si tratta di nomine al... pubbliche, quando si tratta di nomine in cui c'è di mezzo la politica, può succedere, certo. Al PDL, sì. Allora io volevo sollevare questo discorso, cioè volevo dire quando è che ci disinquineremo dalla, diciamo, da questa... dalla cattiva politica, insomma, da questo... questa è una bella domanda, Domenico, perché il punto è che lo spoil system, che significa sostanzialmente mettere i propri uomini quando c'è un cambio di governo, è abbastanza legittimo, fa parte, come dire, della presenza della politica in alcuni punti chiave, in alcuni settori dell'economia e non solo dell'economia. Però in Italia, insomma, la presenza dei partiti è asfissiante, insomma, è troppo pesante. E dunque addirittura... si va dal manager, che non sarebbe una cosa così drammatica, naturalmente deve essere capace questo manager nominato dalla politica, fino al portantino, insomma, fino magari al... Anche pensi un po' ai sindaci revisori di un comune, per esempio. Che dovrebbero essere quelli che controllano gli stessi. Che dovrebbero essere quelli che controllano, questo ritengo che sia addirittura scandaloso, però è una cosa, diciamo, che passa, che ormai fa parte della consuetudine. Ma no, invece su questo non ci dobbiamo arrendere. La ringrazio, Domenico, di averci ricordato questa cosa. Non si capisce poi su che, qual è il fatto di cronaca che l'ha ispirata, ma va bene lo stesso, è una considerazione che possiamo fare sempre, perché non è che cambia molto da questo punto di vista il nostro paese. Luca, provincia di Avellino. Buonasera. Dica. Io intervengo sul discorso dell'influenza suina. Sì. Molto semplice, secondo me. Io la metto anche sull'ironia. Io ho 40 anni, sono del 69, mi ricordo, sì, che da quando ho cominciato a leggere, ho imparato a leggere, sono andato a scuola, io sono di origine sarda, quindi andavo in vacanza in Sardegna e c'erano agli aeroporti, diciamo anche dove si andava a prendere i traghetti, le navi, c'erano grandissimi tabelloni con scritti che dicevano non importate la carne suina dalla Sardegna perché potrebbe essere infetta e potrebbe creare, diciamo, una specie di virus e via discorrendo. Quindi questa cosa della, diciamo, questa influenza suina non è, diciamo, una cosa nuova. Basta sapere che, se si va a vedere informazioni del Ministero, in Italia ci sono 40 milioni di dosi pronte a curare eventualmente questo, quindi diciamo che non è una cosa. Vabbè, secondo me, non si può paragonare quei vecchi cartelli che lei vedeva fissi con l'attuale virus in Messico. Certo, no, però dico che in Italia, ad esempio, se andiamo a guardare da fonti del Ministero della Salute, ci sono 40 milioni di dosi pronti, allora vuol dire che questa influenza, tra virgolette, c'era già. È soltanto, ecco, io la metto dal punto di vista commerciale, la mia battuta è sul punto di vista commerciale, è come un po' le borse, sono cicliche, una volta bisogna spingere la carne di pollo perché c'è la mucca pazza, una volta bisogna spingere... Dunque anche lei ci vede un piano dietro questo allarme? Più che un piano, sì, ecco, no, non diciamo proprio un piano, però un discorso di... oggi, cioè, ci sono degli interessi, ci sono degli interessi che spingono a drammatizzare questo... Sì. Dico, bah, che non lo so, periodicamente mancava il maiale all'appello. Se lei fa mente locale, mancava il maiale all'appello. Cioè, qualcuno vuole colpire la produzione di suini? Sì, sì, è probabile perché giustamente il maiale, tra virgolette. E poi le aziende farmaceutiche che producono magari antivirali o medicine adatte e ne traggono vantaggio. Infatti io penso una cosa che non capisco è, naturalmente tutto questo può succedere dopo lo scoppio di una pandemia o dopo lo scoppio di un'epidemia, secondo lei invece, vorrei capire questo, secondo lei queste cose sono addirittura preparate prima, cioè c'è una strategia dietro queste cose? Se lei, cioè, infatti, sono queste epidemie, sono scatenate proprio da queste forze oscure? Ad arte. E le spiego anche il motivo. Cioè, a me quello che questo sarebbe grave, come ci sono 130 morti in Messico. Cioè, questi 130 morti, secondo lei, sono provocati da qualche forza oscura che architetta tutto? No, le spiego. Secondo me, queste morti, ne hanno messe 130, l'hanno fatto uscire. Però, secondo me, se noi andiamo a vedere, magari 2 anni fa ne saranno morti altri di questa influenza. Quello che mi rende perplesso è il fatto che... Credo che ci siano stati 130 morti qualche anno fa. No, dico che ce ne saranno stati di morti, solo che non l'hanno pubblicizzati. Ha capito? Ho capito. Nel senso, questa influenza suina sicuramente non è uscita ieri. Sicuramente sembra essere uscita ieri in realtà. Comunque. Beh, certo, devono dire così. Però perché in Italia ci sono 40 milioni di dosi? Ma devono dire così chi? Il ministero, no, sto dicendo, mi scusi, il ministero. No, io vorrei capire, secondo lei, no, ma non è una contestazione, è per capire. Cioè, secondo lei esistono forze che oscure, chiamiamole così, che tramano nell'ombra, che appartengono uno ad aziende. Fanno uscire la notizia che adesso si Ma io fanno uscire la notizia o come drammatizzano la notizia, oppure sono loro. No, io non parlo che io penso che queste malattie, tipo la diaria, tipo la SARS, tipo il discorso della mucca pazza e adesso l'influenza la febbre suina, la febbre suina siano cose che ci sono sempre state e che ad arte, per favorire una volta il vitello, una volta il maiale, una volta più praticamente le fanno uscire. Quello che mi rende perplesso è che come esce, se lei mi dice giustamente, sembra che sia uscita ieri, ma perché il ministero dice che in Italia ci sono 40 milioni di dosi? Allora vuol dire che da tempo. Beh no, magari perché ci prepariamo e siamo prudenti e siamo bravi a stare attenti a ogni evenienza, magari c'è solo quello. Comunque il suo ragionamento, che è un ragionamento molto dietrologico eccetera, che è proprio di moltissimi ascoltatori, lo voglio prendere in considerazione assolutamente. Un altro pezzo della trasmissione di venerdì, l'era glaciale, con Dario Bignardi, ospite il ministro Brunetta, riguarda la possibile candidatura di alcune belle ragazze, ne abbiamo parlato a lungo anche noi la settimana passata, per il PDL, ragazze sembra fortissimamente volute da Berlusconi. Sentite. Io volevo chiederle cosa lei pensa del fatto che si faccia un corso di politica di 3 giorni per essere selezionate. Non sono per tre diventare giorni, sono state due settimane, europei. Sono state 50 ore di lezione. Mi sembrano comunque poche. 50 ore di lezione è la quantità di un corso universitario. Allora la domanda è: secondo lei, per fare il candidato alle elezioni europee, va bene avere una formazione di questo tipo, qualunque? Gli altri partiti non hanno fatto neanche questo. Quindi in Europa va bene che ci sia l'ex del Grande Fratello, l'ex tronista, l'ex Valletta. Anche giornalisti, anche mezzi busti, anche imprenditori, anche tutti, cittadini. Va bene. Anche quindi sue colleghe. Sì, che poi magari si stufano e mollano tutto a metà strada. Ma ripeto, io volevo solo una sua opinione. La mia opinione, io la mia opinione avevo delle persone, giornale, avevo delle persone, io sono abituato a giudicare, sono normalmente pronto a giudicare le persone da quello che vedo e non da quello che scrivono i giornali di gossip. In questo caso, al contrario di prima, devo dire che Brunetta batte Bignardi, almeno secondo me. Filippo Rossi è il direttore di Fare Futuro Web, che è il periodico online della Fondazione Fare Futuro, che è presieduta da Gianfranco Fini, presidente della Camera. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Eccoci qui. Allora, oggi un articolo, non scritto da lei, ma insomma di cui certamente lei ha la responsabilità, dal titolo Donne in politica, il velinismo non serve, che è firmato da Sofia Ventura, che è uscito sul periodico online della Fondazione Fare Futuro, critica sostanzialmente la possibilità che ci possano essere delle candidature, come le vogliamo chiamare, di belle ragazze, ex veline, ex Grande Fratello, anche se poi la definizione che ha dato in questo articolo Sofia Ventura non è questo. No, non è questa, infatti. Diciamo però che c'è scritto signore di indubbia avvenenza, ma con un background che difficilmente può giustificare la loro presenza in un'assemblea elettiva come la Camera dei Deputati o anche in ruolo di maggiore responsabilità. Insomma, non c'è la definizione, che secondo me è fuorviante, di ex Grande Fratello, ex velina, perché giustamente sembra quasi una responsabilità appiccicata addosso, no? Però c'è una critica alla possibilità che queste ragazze, insomma, poi si parla delle persone di cui giornali hanno scritto, siano candidate. Perché questa critica, secondo lei? Cioè, no, perché secondo lei, insomma, perché questa critica vostra? La critica deriva da un'analisi sul fatto non che possano essere candidate, ma sul fatto che alla fine, dal punto di vista esterno, possa sembrare che le uniche a candidarsi siano questo tipologia di donna. Siccome appunto questo è un pezzo nato in vista di un convegno che avremo domani in fondazione sulle donne e la politica, ecco, questo tratto, questo piccolo pezzetto di un'analisi molto più lunga analizza il fatto che così facendo può sembrare che l'unico modo perché gente, donne che non fanno politica e vogliono fare politica sia quello. Quindi non è un out, non c'è moralismo, c'è solamente un'analisi di una sensazione estetica, ecco, per così dire. E poi c'è scritto in questo articolo: siamo di fronte a un modo di fare politica con il corpo delle donne. Assistiamo ad un'intelligenza di partito che fa uso dei bei volti e dei bei corpi di persone che con la politica non hanno molto a che fare, allo scopo di proiettare una falsa immagine di freschezza e rinnovamento. Insomma, qui c'è una critica neppure troppo velata al fatto che, secondo voi, Berlusconi, perché poi di questo si tratta, anche se voi dite dirigenza di partito, insomma, Berlusconi, soprattutto Forza Italia, vuole presentare delle candidate che non hanno la caratteristica, non hanno mai fatto politica, non hanno la caratteristica, insomma, di donne impegnate politicamente negli anni passati, ma si presentano col loro bel volto, col loro corpo, con il loro passato, magari in televisione. Voi criticate tutto questo? Critichiamo il fatto che possa sembrare che sia solo questo. Non, la politica non può essere solo questo, e visto che io non sono donna e quindi posso parlare anche di altro, lo stesso dubbio ce l'ho anche sui candidati imprenditori, per intenderci, cioè, diciamo che il candidato di facciata, di immagine, che non ha non che non ha mai fatto politica, perché attenzione, non è quello, anzi quello è un elemento positivo, il fatto che nella politica entrino persone che non hanno mai fatto politica, la politica politicante o anche militante, ma che ci siano energie nuove, ma candidati che sostanzialmente vengono scelti dall'alto e che in vita loro magari non hanno mai pensato di far politica, diciamo così, scelti per ordine superiore. E che secondo lei questo può valere per le donne, ma può valere anche per un dirigente d'azienda. Stiamo parlando delle donne. Secondo lei ha l'impressione che queste persone di cui si è parlato stiano per essere scelte? Poi vedremo naturalmente quante saranno in lista, in che posizione, eccetera. Non ne ho la più. Per quale motivo? Perché appartengono ad una sorta di, non lo so, di corte intorno al Presidente del Consiglio? Ma io credo, diciamo, questo è una stiamo nella dietrologia come prima qualcuno l'ha scritto esplicitamente. No, chiaro, qui si scrive tutto. No, io credo che vengano nel momento in cui c'è l'esigenza reale, concreta, di dare un'immagine e di svecchiare veramente la politica italiana. Poi alle volte, nel momento in cui si fanno le liste, si cercano delle scorciatoie, anche legittime alle volte. Da questa tipologia può anche venire, ed è vero quello che diceva Brunetta in trasmissione, possono anche venire delle scoperte. Delle scoperte, quindi non è che noi ci chiudiamo e facciamo i pacchettoni moralisti, non è quello, però ecco, diciamo che delle volte può essere una scorciatoia, no? Cioè, la persona che ha già avuto della visibilità in televisione, già conosciuta in qualche modo, può portare voti. Serve a, diciamo, a dare una ringiovanita a una lista. Poi io non so se saranno candidate o meno, se saranno candidate ho i miei dubbi che saranno elette, quindi con questa arrivavo all'ultima domanda, però, Rossi, ed è questa. Ho sentito il leader del Partito Democratico Franceschini fare un'accusa, a modo suo naturalmente, perché la battaglia politica, però non è troppo peregrina il ragionamento di Franceschini. Dice: guardate che Berlusconi cosa sta facendo, in realtà sta facendo delle liste bloccate, perché ci saranno candidati non solo Berlusconi in tutte le liste come in testa alla ciascuna circoscrizione, ma anche ministri, deputati, cioè persone sostanzialmente ineleggibili che a un certo punto non andranno in Parlamento. Questo cosa significa? Che basterà essere candidati magari in fondo alla lista e raccogliere qualche centinaio di voti per andare al Parlamento europeo. È possibile che accada nella lista del PDL questo? Cioè, liste bloccate anche se non ci sono? Beh, no, adesso dal punto di vista tecnico è assolutamente una fesseria, nel senso che non è una lista bloccata, perché i capilista sono in tutte le circoscrizioni e quindi tutti devono rinunciare, quelli che vengono non possono scegliere. La lista bloccata, di solito in questi casi, cioè il trucco della lista bloccata in questi casi è quando i capilista possono scegliere un collegio o una circoscrizione o l'altra circoscrizione. In questo caso, siccome non possono scegliere perché comunque non vengono eletti, in realtà si dà solo possibilità chi viene dopo, che magari prende meno. Appunto, no, che... È come se fosse una lista bloccata alla fine, se uno riesce a organizzare bene le rinunce, chi rinuncia e chi non rinuncia. No, no, no, le rinunce sono tutte. No, le rinunce sono tutte, d'accordo, se uno però riesce... Non è, è proprio per questo, mentre le liste bloccate nascono liste bloccate dal gioco delle rinunce, no, certo, quindi certo. Le rinunce sono obbligate, quindi non c'è lista bloccata. Adesso è un po' un tecnicismo, però no, è però così. Io immagino che se uno, che ne so, nella circoscrizione nord-ovest pensa di poter eleggere, non so, 7-8 deputati europei, fa in modo che da quella lista escano magari 8 persone. Certo, ci si può sbagliare su uno, su due, che poi prevalgono. Ma proprio perché il gioco sulle preferenze sarà con meno voti, sì. Ci saranno molte più sorprese. Dipende quante persone si mettono in lista, però perché se si fanno liste in cui la lotta è tra due persone, tra tre persone, perché le altre sei sono sicure, insomma, si possono costruire delle liste come se fossero bloccate, non è un delitto, per carità. No, ma infatti appunto stiamo veramente creare una polemica politica su questo. Io vedo che già siamo 3 minuti che ci stiamo parlando su questo tecnicismo. Sì, forse è troppo. Senta, siamo annoiati anche noi, penso. Assolutamente, sì, già mi sono annoiato effettivamente. Un'ultimissima cosa è questa, e riguarda la questione di Salò. Oggi ho letto alcune interviste, devo dire che l'intervista di Alessandra Mussolini al Corriere della Sera, su Repubblica, mi ha convinto. Cioè, lei dice, ma perché in nome della in nome della realpolitik di questa, no, dobbiamo rinunciare a quello che sentiamo come una cosa da fare, cioè il fatto che una cosa è la storia, una cosa sono le persone vanno, il passato delle persone va parificato, insomma non è un ragionamento così folle quello di Alessandra Mussolini. No, anzi, è un argomento molto lineare. Posso dire quello che penso io su questa cosa? Sì. Due cose. La cosiddetta parificazione, poi anche lì i tecnicismi della legge sono un po' più complessi, ma comunque la cosiddetta parificazione per me è una cosa giuridicamente sacrosanta. Stiamo parlando di partigiani e repubblichini di Salò, adesso così per volgarizzare. No, giuramente, perché oltretutto, cioè, i ragazzi di Salò che hanno fatto il militare per la Repubblica di Salò erano convinti non solo di essere giusto, che è un problema che non ci importa in questo caso, ma erano convinti di farlo per uno Stato legittimo. Al di là di questo, che già è qualcosa comunque. È fondamentale, nel senso che uno. Non è che tutti. Cioè, dunque, se fosse per lei, questo progetto di legge lo ripresenterebbe? No, e questa è la seconda parte. Io sono convinto che, lei ha citato Franceschini, il dovere morale di presentare un progetto del genere sarebbe della sinistra italiana. Proprio per uscire da una logica di appartenenze storiche. Guardi che alcuni di sinistra l'avevano firmata, infatti, poi hanno ritirato la firma. Ecco, forse se io ci tengo molto, nel senso che poi se in Italia può diventare veramente un paese normale dal punto di vista della battaglia politica, che non è più legata a appartenenze di 60 anni fa, forse oggi. Anche e soprattutto dopo il gesto di Berlusconi al 25 aprile, di Fini, di tante cose sono state dette, se la sinistra italiana, invece di rintuzzare, cercare ogni volta una situazione di guerriglia retorica su questi elementi, facesse un grande gesto, dicesse sì, c'è stata una parte giusta e c'è stata una parte sbagliata, lo diciamo tutti, e quindi non è più un oggetto del contendere, però quelle persone che hanno combattuto la maggior parte dei ragazzi di Salò non erano volontari. Ho capito che vuole dire lei. Dovrebbe essere la stessa sinistra a portare avanti un progetto di legge di questo tipo. Io sono assolutamente d'accordo. La ringrazio molto. Buona serata. TG5. La febbre suina sbarca in Europa, primo caso in Spagna, 2 in Gran Bretagna, 149 morti in Messico, scosso anche da un terremoto. L'OMS verso la massima allerta, nessun allarme in Italia. Al TG5 il sottosegretario alla salute, Ferruccio Fazio. Ondata di maltempo in tutta Italia, 2 morti in Sicilia a causa del vento. In Liguria, comuni isolati per le frane, temporali anche nelle zone terremotate. All'Aquila, presto l'ordinanza per il rientro nelle case agibili dei primi 500 abitanti. Il sindaco: non è un obbligo, ma occorre vincere la paura. Fiat, intesa raggiunta con i sindacati americani per l'accordo con Chrysler, mancano solo le banche, e General Motors presenta il piano per evitare il fallimento. La gente d'Abruzzo nei miei pensieri, Carlo d'Inghilterra a Montecitorio, serve un rinascimento ambientale, battute su Beckham e Capello, poi con Camilla, udienza dal Papa. Invase Piazza di Spagna con migliaia di palline colorate, 8 mesi a Cecchini, e a Bologna il sindaco uscente ed ex leader della CGIL Cofferati, condannato per comportamento antisindacale. Bene, 24 minuti, sentiamo anche il TG1. La febbre suina arriva in Spagna, Gran Bretagna, 149 morti in Messico, verso massima allerta, in Italia pochi rischi. Slitta, rientro a casa, domani il Papa in Abruzzo, Valeria racconta le sue ore sotto le macerie, concerto di Gianni Morandi. L'appello di Carlo d'Inghilterra, un rinascimento ambientale per salvare il pianeta, poi con Camilla in udienza dal Papa. Al volante, drogato e ubriaco, travolge un'auto ed uccide una madre di 5 figli, è accaduto a Cuneo. Maltempo, il vento uccide in Sicilia, morti 2 uomini, uno travolto da un cancello, l'altro dal ramo di un albero. Nuovo mistero su Leonardo, il celebre autoritratto sarebbe in realtà il ritratto dello zio che lo ha allevato. Lo dice al TG1, uno studioso americano. Va bene. Angelo da Milano, buonasera. Angelo? A proposito della... mi sente? Sì, la sento. Dell'intervista di Bignardi a Brunetta. Sì. Mi sembra che l'episodio scatenante sia stata tradita da questa assonanza Brandolini-Brodolini, mentre Brodolini è un cognome bruttino, Brandolini sembra un po' più nobile, quindi forse... Cioè, può darsi. Poi però l'intervista è stata interessante, perché proprio dopo questo disagio in realtà lui se l'è presa, perché lei ha detto di aver letto il libro un po' così e averlo trovato un po' noioso. Sì, vero. E quindi ha fatto emergere, mi sembra, questa stizzosità di Brunetta. E alla fine mi sembra interessante questa cosa, cioè che nell'intervista è passato da una fase di contenuto a una fase di relazione, cioè, e lei ha fatto emergere un po' questo carattere infantile di Brunetta, che... Per cui è interessante l'indagine, è come dire, ma qual è la vera motivazione per cui Brunetta fa quello che fa? E che è la domanda che ci facciamo. Beh, non necessariamente il fatto che Brunetta magari sia permaloso, questo abbia delle ripercussioni nei suoi progetti di legge, nel suo modo di fare politica. Può darsi naturalmente in alcuni casi, però insomma, non è che necessariamente alcune caratteristiche del proprio carattere poi si riflettono nel modo di fare politica. Può succedere naturalmente, ma non è detto. Di fare politica no, però la sua... Cioè lei quale collegamento ci trova? Il collegamento è questo, che lui insiste sempre molto con questa cosa della sua biografia, no? Sì. Il ragazzino piccolino, un po' negletto, di famiglia misera, eccetera, eccetera, che diventa... Lui poi dice che aspirava al premio Nobel, dice che... Insomma, il ruolo dell'outsider assoluto, sì, no? Quello che sì. Arriva lui, è il più bravo di tutti e sistema tutti. Ecco, emergeva un po' questa sua motivazione di fondo in quello che fa, che è un po' spuria dal punto di vista dell'analisi dei processi e delle decisioni politiche. Mi sembrava interessante che lei abbia fatto emergere questa cosa, a parte guadagnare le prime pagine dei giornali, e ha fatto un'intervista che ha avuto... L'altra sera lei ha intervistato il sagrestano nazista, no? Sì. E incalzando così è riuscito, senza poi commentare, sto bravo a non commentare, perché... Da solo si commentava la povertà intellettuale del suo interlocutore. E nel no? caso di Brunetta cosa è uscito fuori secondo lei? Nel caso di Brunetta è uscito fuori che secondo me è essenzialmente la sua... Permalosità. Sì, no, la sua, il fatto di fare questa campagna sui fannulloni e di fare quello che sistema tutto è un più una pulsione di tipo autoaffermazione che non una reale analisi. Ho capito. Mi sembra che voglio dire, poi ci si può trovare di tutto naturalmente nelle proposte di legge di un ministro, anche pulsioni più personali che non so che volontà di sistemare le cose nel paese. Io non credo che in questo caso ci sia però ogni cosa, se vuole, ha un riferimento con la personalità di chi la propone, no? Non c'è dubbio. Ecco, il collegamento in questo caso da parte sua mi sembra un po' azzardato. La ringrazio. Andrea da Torino. Sì, buonasera. Dica. Allora, io volevo intervenire sul, non so, chiamiamola polemica tra Di Pietro e Berlusconi, dove pare che Di Pietro abbia in qualche modo accusato Berlusconi di voler applicare il programma della P2. Io, non è una polemica, è una cosa detta da Di Pietro come, e l'ha detto già decine e decine di volte, insomma, non c'è nessuna polemica, per fortuna. Io mi limiterei semplicemente a invitare chiunque a andare a cercare su internet, dove vogliono, il programma della P2 che si chiama Piano di Rinascita Democratica, e effettivamente, se uno lo legge, ci sono molte corrispondenze con quello che si sta attuando oggi. Dice lei, Ma i punti, diciamo, volendo sintetizzare, poi sono ovviamente sono molti, ma alcuni dei punti sono la nascita di due partiti, uno di sinistra e uno di destra, il controllo dei media, la riforma della magistratura. Che è un po' la nascita di due partiti, un po' in contraddizione con il controllo dei media, comunque. Poi... Vabbè, sì. Poi. Il fatto sta che erano entrambi i punti compresi nel... nel programma della P2, la riforma della magistratura con divisione tra il ruolo del PM e del magistrato, l'abolizione delle province, tutto questo ragionamento dove vuole portare, Andrea? No, io non voglio fare, non voglio trarre delle conclusioni. Dico... A parte che lei ha detto delle cose che sono proposte talmente di talmente patrimonio di miriadi di persone che concentrarsi sul piano su un qualcosa degli anni 70-80 come il piano della P2, insomma, vennero considerate quasi eversive queste finalità. Oggi sono effettivamente diventate condivise da molti. Io non lo so, forse lei è preoccupato? Non particolarmente. Dico che effettivamente c'è una corrispondenza. Io non ci trovo alcuna corrispondenza, questa è la mia valutazione. Io ho capito che la sua posizione no, ma nessuna questa. Proprio nella maniera più assoluta, non una, non ne trovo nemmeno sull'1%, insomma, non so come dire, perché insomma, i contesti sono talmente diversi e le cose sono talmente diverse. Di trarre le proprie sì, ma certo, io dico le cose sono talmente diverse, i contesti talmente separati, uno se vuole può andare a trovare gli iscritti, no? Questo giochetto degli iscritti, lei è un iscritto, è stato iscritto alla P2, ma che vuol dire? Cioè, Berlusconi era un iscritto, questo è un altro fatto storicamente accertato, voglio dire. Quindi... Sì, ma è facile fare questi collegamenti per arrivare poi a delle conclusioni. Io invece questi collegamenti, naturalmente mi informo, eccetera, questi collegamenti li faccio, poi penso che queste robe appartengano allo strapassato. La ringrazio e andiamo a Parma da Anna Maria, buonasera. Anna Maria, mi sente? Pronto? Sì, buonasera, dica. Buonasera, senta, io volevo intervenire, come le avranno già riferito, sul dottor Brunetta, che ho già sentito altre volte, una mattina con una trasmissione in cui aveva non gradito quello che era stato detto da un vostro chiarissimo giornalista, e quindi non penso che sia il caso di entrare nel merito sul temperamento del dottor Brunetta. Io invece volevo dire una cosa, sono stata allieva del chiarissimo professor Gino Giugni, giuslavorista, che so essere stato il padre dello Statuto dei Lavoratori e che pare proprio per quello sia stato gambizzato dalle Brigate Rosse, quindi c'è qualcosa che non mi torna. Diciamo che io devo dire, mi metto dalla parte di Daria Bignardi, non nel contenzioso vero e proprio con Brunetta, ma io non conoscevo nella maniera più assoluta il nome di Giacomo Brodolini e non Brandolini, come ha detto la Bignardi, anch'io non lo conoscevo. Avessi letto il libro magari non avrei fatto confusione, oppure sì, non lo so. Brunetta ci dice che uno dei padri, non il padre, insomma, poi lui ha detto il padre dello Studio dei Lavoratori, lo sarà insieme a Gino Giugni, cosa vuole... Cosa vuole che lei dica? Lei senz'altro sa che uomo di cultura, che Gino Giugni è stato un grande giurista. Assolutamente, assolutamente. Ecco, esserlo, averlo un po' sposto, collegato al Brodolini, non so come si chiami, che non, francamente non ho mai sentito, come ex allieva mi ha un po' turbato. Vabbè, adesso ci si mettono anche gli ex allievi di Gino Giugni a protestare contro Brunetta. Guardi, io non lo so, francamente. Non le so dire che ruolo abbia avuto effettivamente Giacomo Brodolini nello statuto dei lavoratori. Penso che abbia avuto un ruolo importante, cioè, se ce lo dice Brunetta, insomma, sarebbe a questo punto accusabile anche di essersela presa in maniera un po' troppo forte con la Bignardi. Avrà avuto sicuramente un ruolo importante, dunque insomma. Non ne facciamo, signora, una questione di classifiche. Chi ha avuto un ruolo più importante nello statuto dei lavoratori? Certo, Gino Giugni è considerato il padre dello statuto dei lavoratori. Sarà un figlioccio, vogliamo dire così, che Brodolini sarà un come lo possiamo definire, Anna Maria? Niente, comunque la democrazia è anche questo, parlare in libertà. Assolutamente, anche sbagliarsi in diretta, però anche sbagliare. Beh, Brandolini, sì. E Brodolini anche, lei torniamo al discorso, la classe si vede anche nei dettagli, e insomma, cioè anche lei non doveva sbagliare, anche secondo lei non doveva sbagliare la Bignardi quel nome? Ma i lapsus freudiani capita a tutti di averli, quindi chiamiamolo un lapsus freudiano. Ma in questo caso di lapsus freudiano però non ci vedo nulla. Ma è detta con molta ironia. Ecco. Mi scusi, perché dovrebbe avere citato Brandolini, dove aver detto Brandolini e non Brodolini? Non lo capisco. Ma guardi, a volte capita, parlando in diretta, a braccio. Altra cosa è quando si fa maliziosamente, questo io non lo condivido. E qual è la malizia in questi casi? Ecco, penso che si sia voluti andare a puntualizzare una cosa che non era il caso di puntualizzare, perché può capitare, poi non è che sia stato fatto detta una bestemmia, insomma. Quindi, ho capito. Va bene, sono d'accordo con lei su questo. La ringrazio, Anna Maria. 20:18, traffico. Strade in diretta. Buonasera, pioggia e vento forte sulle regioni del centro-sud. Al momento la situazione è più difficile sulla 20 Messina-Palermo, che rimane chiusa tra Santo Stefano di Camastra e Tusa verso Messina per il recupero di un mezzo pesante che a causa del vento forte si è rovesciato su un fianco. Problemi per il vento anche in città, Palermo e Roma. Chiusure per alberi caduti, ci sono ritardi e cancellazioni per i voli sia in arrivo che in partenza. Interrotta inoltre la linea ferroviaria regionale Roma-Albano tra Ciampino e Acquacetosa per un albero caduto sulla linea elettrica. Al nord è ancora pioggia, in Liguria è stato prorogato fino alle 6 di domani lo stato di allerta. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, 2 km di coda verso Ventimiglia per un incidente tra Genova Aeroporto e Genova Pegli. È stata riaperta la 6 Torino-Savona, rimasta chiusa in giornata tra Millesimo e Altare verso Savona per una frana. Infine sulla 8 Milano-Varese, code sulle Bivio per la 9 Lenate-Como-Chiasso per le provenienze da Varese verso Como a causa di un incidente. Tutto più tardi. La Zanzara. Bene, 20:19, 800 24 00 24. Bisogna sempre avere grande rispetto per le decisioni della magistratura, su questo non c'è dubbio, però sentite un po', ricordate quelle 500.000 palline di plastica che hanno colorato, tutte colorate, la scalinata di Trinità dei Monti a Roma? Era il 16 gennaio del 2008. Ebbene, per quella che fu definita da molti una esibizione di pop art, e poi ci sono state anche altre definizioni, per quella trovata l'ideatore Graziano Cecchini è stato condannato oggi, se non leggo male, a 8 mesi di reclusione, 8 mesi di reclusione da parte del giudice monocratico della capitale Tiziana Gualtieri, rito abbreviato. 4 mesi di reclusione per Daniele Pinti, che è stato ritenuto partecipante ma non organizzatore dell'iniziativa, e assoluzione per un'altra persona. L'accusa era concorso in interruzione di pubblico servizio. L'interruzione di pubblico servizio in cosa consisteva? Nell'occasione, per le palline, non sono potuti passare per Piazza di Spagna 2 autobus. Due autobus, per carità, noi diciamo sempre che non bisogna interrompere il servizio pubblico, sicuramente qualcuno sarà stato danneggiato e questo non è positivo, Però paragonare, non so, uno sciopero dell'Alitalia alle palline che scendono da Trinità dei Monti, francamente mi sembra eccessivo, anche perché io non ho mai visto, non ho mai sentito nessun sindacalista, dipendente dell'Alitalia o di un'altra azienda essere condannato a 8 mesi di reclusione per concorso di interruzione di pubblico servizio. Eppure, insomma, qualche volta ci sarebbe voluto, o no? Cecchini, buonasera. Sì, buonasera, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, Cecchini, che è successo? Che è successo? Beh, è successo. Allora, il problema è molto semplice. Quando si suol dire che la giustizia è cieca veramente, perché io sono in possesso, l'ho fatto vedere al giudice, il mio avvocato ha fatto vedere al giudice dei filmati, no? Sì. Dove passano le macchine. Da considerare che sono stato condannato a 8 mesi per interruzione di pubblico servizio in una zona che è considerata isola pedonale. Però gli autobus possono passare. Non solo sono passati gli autobus, ma c'è un filmato che lo potete vedere su YouTube, sì, dove i carabinieri mi arrestano e transitano tranquillamente per la piazza. E allora il giudice dov'è che ha preso questa notizia di questi due autobus? E due autobus effettivamente si saranno fermati, immagino. No, sì, si sono fermati perché io faccio la performance alle 9:10, sì, e alle 9:20 praticamente era tutto finito. È stata fatta così bene che le palline non davano nessun disturbo, ma stavano rendendo gioiosa tutta la mattinata, e gli autobus passavano, tant'è vero che nei filmati si vede gli autobus, è transitata anche un'ambulanza. Mm. Però questo non è bastato, cioè le vostre prove che avete portato non è bastato perché la signora Gualtieri, se non erro, io non ho avuto Tiziana Gualtieri, questo così sì. Tiziana Gualtieri evidentemente soffre di qualche malattia agli occhi e di conseguenza è disturbata dalle visioni vere ed effettive. Lei sicuramente ha altre visioni, che sono le visioni del potere, le visioni dei palazzi. Vabbè, adesso non esageriamo, adesso è un giudice monocratico. No, io non voglio io infatti ho chiesto, perché nel rispetto della legge, di scontare 8 mesi. Io li voglio scontare. Il mio avvocato adesso sta vedendo se è possibile che io venga incarcerato veramente. Però non faccia troppo l'esibizionista, non è mai bello andare in carcere per 8 mesi. Attenzione, io capisco voi giornalisti, ma io non sono un esibizionista, perché leggete gli articoli che sono usciti. No, ma essere esibizionisti per un artista va benissimo, per carità. Io sono un artista, la società Taschen, che è la più grossa casa editrice al mondo d'opere d'arte, mi considera un artista. L'operazione è stata fatta. Di conseguenza, voglio dire, non ho impedito nessun tipo di interruzione. Torno a ripetere, ci sono 20 minuti di filmati che si possono vedere tranquillamente anche su YouTube, digitando Graziano Cecchini, lancio di palline, e quindi uno lì si rende conto. Ora, se un giudice mi condanna per interruzione, ma avesse condannato per aver sporcato la piazza, sarebbe stato allora un altro tipo di discorso. No, ma guardi, io da questo punto di vista, sulla natura della condanna e sul tipo di condanna che le è stata inflitta, sono a spada tratta dalla parte sua. Penso che sia una follia, e abbiamo assistito negli ultimi 30 anni a interruzioni di pubblico servizio molto più gravi. Io sono un pochino arrabbiato perché la notizia l'ho ricevuta che stavo partendo da Palermo, e l'aeroporto di Palermo è intestato a due giudici con la G maiuscola che si chiamano Falcone e Borsellino. E questo mi dà fastidio. Siccome sono un assessore a Salemi, in un paese che... Assessore a nulla, però. Assessore a nulla. A nulla e assessore adesso... Alla giustizia. Alla giustizia. Che significa assessore a nulla a Salemi? L'ha nominata Sgarbi, tra l'altro. Che significa nulla? È così un'invenzione? No, non è un'invenzione. Dove non c'è il nulla bisogna fare qualcosa, quindi il nulla che riempie il vuoto, il tutto. E quindi sono assessore al tutto. Tant'è vero che stiamo facendo delle magnifiche cose giù a Salemi. Non è che lei viene condannato per questo dal giudice, no? Perché no, sto scherzando. Ma può darsi pure che questo esperimento sgarbiano possa dar fastidio. E tant'è vero che questo mi ha dato la spinta, perché non volevo accettare la candidatura che mi è stata offerta dal presidente Lombardo e da Francesco Storace insieme a altre due liste. Ma perché lei è candidato, sa che siamo in par condicio e qui ci tagliano la gola. Io guardi, non sono un praticante potevo sapere che lei era candidato per Storace e Lombardo. Questo mi ha spinto ad accettare, perché credo che se ci riuscissi sarebbe ottimo, non solo per Salemi con Vittorio, ma anche perché me la prenderei a cuore il discorso proprio della giustizia. Vabbè, ma adesso non possiamo parlare che c'è la par condicio, per carità, Cecchini, per carità, la par condicio è terribile, è una roba terrificante, la par condicio. Quando si sente un candidato dovremmo sentire tutti i candidati del mondo, una cosa ridicola. Senta, però io vorrei capire una cosa, no? Lei è andato a queste quante udienze ci sono state? Una, due, quante udienze? No, ce ne sono state credo 4 o 5. 4 o 5. Che cos'è che non ha funzionato nella vostra difesa? Perché io ricordo quella giornata, le palline, sono passate, è stato arrestato, poi è stato lì. Cioè, gli autobus interrotti, c'è stato qualcuno che si è arrabbiato per questo, che ha detto basta, devo passare, devo andare in ufficio. No, perché basta andare a parlare. No, perché se uno va a parlare con i negozianti della zona, erano tutti felici perché per quel giorno hanno avuto un aumento nel loro commercio, perché ci sono stati più caffè venduti, più borsette vendute, addirittura le direttrici di molti noti di note griff hanno mandato le commesse a prendere le patine. Ho capito. Ai loro clienti. Ma non è il suo bis successivo, no? Non è il suo bis, cos'è che fece dopo? Non è che lei, siccome replicò dopo in un altro modo, no? Fece un'altra performance. A Firenze, quando ho fatto sfilare le modelle contro la tranvia che doveva passare sotto al... No, un'altra cosa poi lei ha fatto, non ricordo cosa, sempre a Roma. Fontana di Trevi l'ho fatta prima. Ah, sì, Fontana di Trevi prima, sì, lei ha ragione, Fontana di Trevi prima. Poi ho fatto, ha colorato di rosso Fontana di Trevi, sì. E poi ho nascosto Castel Sant'Angelo quando all'inizio, il giorno dopo l'apertura delle Olimpiadi cinesi contro... Sì, sì, ricordo. Per il Tibet e per la... Magari tutte queste cose insieme hanno fatto scattare il personaggio Cecchini. Allora diamo una bastonata al personaggio Cecchini. Ti è concorso in interruzione di pubblico servizio. Esatto, e tant'è vero che ho così paura che io il primo maggio sarò a Piazza Venezia con un pullman rosso con due piani, dove c'è scritto Free Burma per i diritti dell'uomo. Vabbè, spero che nessun giudice se la prenda con lei per questo, per carità. Non credo. Va bene, Cecchini, io sono con lei contro questa sentenza, concorso in interruzione di pubblico servizio per le palline a Piazza di Spagna. Secondo me, insomma, i giudici dovrebbero pensare a qualcosa d'altro. La ringrazio. Titoli del TG2. Febbre suina, confermati 3 casi in Europa, 1 malato in Spagna, 2 in Scozia. L'Organizzazione Mondiale della Sanità verso la massima allerta, 149 morti in Messico. In Italia alta la sorveglianza, domani attivo il numero verde per chiedere informazioni. Nessun rischio dal consumo di carne suina, evitare i viaggi in Messico. I sindacati americani hanno detto sì all'accordo Fiat-Chrysler, adesso manca l'ok delle banche, tagli dolorosi hanno detto i rappresentanti dei lavoratori, ma è il solo modo per salvare l'azienda. L'ondata di maltempo si è spostata verso il centro-sud per il forte vento, 2 morti in Sicilia, al nord allagamenti e neve a bassa quota, pericolo valanghe. Secondo l'Istat, lo scorso novembre la popolazione residente in Italia ha superato la soglia dei 60 milioni. Eravamo 50 milioni nel 1959. Decisivi negli ultimi anni gli immigrati. Eccoci qui, andiamo a Roma da Ernesto. Buonasera. Ernesto, mi sente? Pronto? Sì, la sento. Buonasera. Ah, buonasera, senta. E niente, stavo aspettando da un po', non mi pare vero che tocchi a me. Eccoci qui. Dunque niente, io volevo parlare delle elezioni, quelle europee, quelle soprattutto anche delle provinciali. Io ho deciso che questa volta molto platealmente non voterò, andrò dal presidente del seggio, consegnerò la scheda elettorale dicendo che io non sono disposto a votare dei nuovi papponi politici, dei mantenuti che con 14-15 mila euro al mese vanno una volta al mese a Strasburgo, a Bruxelles, e senza nessuna ombra di vergogna, e tantomeno dei consiglieri provinciali che sono dei piccoli reucci lì alla provincia senza fare niente. Però Ernesto, per esprimere tutte queste idee che io in parte condivido, anche se non in maniera così estremista come la sua, c'è bisogno di andare a fare una chiassata al seggio a rifiutare la scheda del presidente di seggio? Basta non andare direttamente a votare, non c'è bisogno di andare lì e magari inscenare. Ma lì dirò al presidente di verbalizzare che non desidero votare perché non voglio contribuire. Ma ho capito Ernesto, ma tanto non le danno retta, verbalizzano e poi non risulta nulla, cioè non è che sia importante. va là a complicare la vita ai presidenti di seggio, glielo dico, è un consiglio. Ma io non che voglio le do. Complicare niente a nessuno, lo farò con discrezione, senza fare vabbè, cazzate. Faccia quello che vuole, io le consiglio, però, le consiglio di non in farlo. In un paese come il nostro, col debito pubblico che abbiamo, dove questi sì. prendono 14-15 mila euro, che pare a quanto prende un pensionato in un anno e mezzo, è una vergogna, una cosa. Guardi immorale. Ernesto, fosse per me il Parlamento europeo lo abolirei, per cui figuriamoci un po'. Poi mi pare assurdo leggere oggi un'intervista come quella che l'ex sindaco di Milano Formentini ha rilasciato al giornale. Formentini è stato al Parlamento europeo per 10 anni, non mi pare che in questi 10 anni al Parlamento europeo abbia espresso tutte queste critiche allo stesso Parlamento europeo, eppure adesso tanti anni dopo, una volta prese le pensioni, i soldi eccetera, cosa dice Formentini? Pensionati di lusso? Lì si può anche stare comodi in ufficio a fare il sudoku, il lavoro non ti arriva certo sulla scrivania. Strasburgo, l'ideale per imboscarsi. Ho capito, ma insomma si poteva dirlo anche un po' prima, non 15 anni dopo, 20 anni dopo, no? Ernesto, che vanno a farla? Proprio se non capiscono niente, non parlano le lingue, a stento parlano male l'italiano. È proprio Gentaglia che va a prendere. Adesso non esageriamo. Gentaglia, sono persone elette perché ci sono le preferenze, insomma, elette al Parlamento europeo e che rappresentano l'Italia al Parlamento europeo. Lo possono fare bene, male. Io contesto l'esistenza del Parlamento europeo in quanto organismo che produce qualche cosa, insomma, è produttivo. Però siamo isolati in questa battaglia. La ringrazio, Ernesto. Aldo da Roma, buonasera. Pronto? Sì, buonasera Aldo, dica. Mi sente? La sento. Senta, io volevo parlare un attimino dello stupro che c'è stato a Milano venerdì sera. Non so se l'ha sentito. Cosa vogliamo dire? Non no, c'è ecco, niente, il fatto non che c'è niente non da commentare. Non c'è traccia su nessun telegiornale di questo fatto. Beh, insomma, sono passati. Quello che è successo a Bidonia. Sono passati un paio di giorni. Sì, sì, però dico, io pensavo che oggi magari c'era un eco maggiore, invece non c'è stato niente. Non vorrei che magari diventasse da due cose: dalla prima che ci stiamo abituando a queste cose, oppure che magari queste notizie è meglio che non si sappiano più tanto, perché per non allarmare tanto magari la gente, questo penso io, non lo so. Beh, questa sera c'è una bella botta di dietrologia e di interpretazioni dietrologiche dietro le cose. Io credo semplicemente che sono fatti molto gravi, naturalmente qui assolutamente non dobbiamo abituarci, però fanno parte di quelle notizie di cronaca che nascono e poi muoiono, se proprio vogliamo parlare, e non credo sia il caso di parlare di come l'informazione tratta queste cose, almeno in questo caso. La ringrazio. Giuseppe dalla provincia di Chieti. Pronto? Buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Complimenti per la sua trasmissione, ma soprattutto le sere. La ringrazio, dica pure. Dunque, io volevo parlare un po' di clandestini. E perché mai? Perché io dico subito che ho votato al centrodestra, no? Perché sono stato sempre di centro, di quest'area qui. Cioè, sono andato ho detto, questa volta abbiamo un governo che ci ha promesso La mano dura sull'immigrazione. Esatto. Il pugno esatto. duro sull'immigrazione. Adesso il 25 di aprile ne escono 1000 e rotti. Sì, per questa questione della permanenza, dei CPT, eccetera. Ok. Allora, io mi sento, cioè come cittadino, di non votare più, perché è stato fatto passare un emendamento presentato dal signor Franceschini, dall'onorevole Franceschini, e poi ci sono stati dei cretini, tra virgolette, così l'ha definito Libero, che l'hanno votato. Cioè praticamente adesso sono rimasti 2 mesi, ok? Cioè, ma io dico una cosa, si vuole risolvere questo problema oppure, non lo so, cioè, vogliamo riempire l'Italia di clandestini? Perché io dico, c'ho mia a Milano, no? No, ma Giuseppe, adesso la linea va e viene, ho capito benissimo. Lei è arrabbiato, come lo è Libero, che sta conducendo una battaglia su questo punto. Lei è molto arrabbiato per il fatto che su un tema importante come quello dell'immigrazione clandestina, il PDL abbia sostanzialmente votato insieme al Partito Democratico per questa questione della permanenza nei CPT e anche sulla questione delle ronde. E diciamo, non dico emarginando, però scavalcando la posizione della Lega, che è rimasta isolata. Giuseppe, io, fosse per me, metterei 18 mesi di permanenza e forse anche di più nei CPT, come avviene in diversi paesi per i clandestini, e dunque sono d'accordo. Sulle ronde è un altro discorso, un po' più complicato, però sulla permanenza nei centri di permanenza temporanea dei clandestini mi sembra che la Lega abbia ragione, cioè dovrebbero essere portati a 18 mesi, almeno secondo me. Carlo da Firenze, buonasera. Sì, buonasera dottor Cruciani, finalmente se riesco a prendere la linea, perché parecchio sono aspettato, però io ho una particolare predisposizione per la Zanzara, perché mi ricorda un libro, un giornalino scritto da un prete di Farrata, Pistoia, che la chiamava la Zanzara ed era in difesa delle frecciaiole, cioè di coloro che erano sfruttate. Perciò ecco, mi piace parlare alla Zanzara. Dovremmo scoprire in realtà i vari giornalini che hanno avuto Don come Dario testa. Flori si chiamava, detto Sbarra. Don Dario Flori, che tra l'altro scrisse il Biancofiore come l'inno della democrazia cristiana. Mi scusi un attimo, mi ricordi questi nomi che sono importanti, perché vogliamo rintracciare queste persone, non credo che ci siano più, naturalmente. È stato scritto da un libro da una professoressa sempre di Farrata, Covizzoli, sì, che praticamente ha fatto la tesi su questo prete, e praticamente è venuto fuori e lui scriveva il suo giornalino, e addirittura poi, sempre per tutelare gli interessi dei contadini del posto, fece anche, costituì insieme una banca, diciamo, è ancora vigente ed è molto presente sul territorio. Comunque questo giornalino si chiamava La Zanzara ed era ideato e... da un sacerdote di Farrata, Don Dario Flori, detto Sbarra, per la sua come si può dire, la sua intransigenza sullo sfruttamento delle persone, in particolare in questo caso delle frecciaiole, che lei sa che sì, a quei sì, tempi sì. Le donne facevano. Mi scusi un attimo, ma che tipo di cose c'erano in questo giornale? Parlava di tante cose, principalmente della difesa dei più deboli, diciamo, cioè sì, delle frecciaiole, dei contadini, e cercò di organizzarli in tipo di sindacato, e praticamente da lì cominciò questa, come si può dire, la protezione di questa persona, poi si formava. Vabbè, fantastico, comunque, fantastico. Non c'entra sul problema del quale volevo parlare, l'ho detto perché la Zanzara mi ricorda appunto questo... Don Dario Flori, di Farrata. Mi dica, caro. Senta, dunque, no, io volevo parlare un attimo su questo Brunetta, che è stato dannato tanto. Io leggevo l'altro giorno sulla Repubblica che addirittura è stato penalizzato sullo stipendio, uno perché è stato a donare il sangue. Poi è stato sempre su Repubblica o su una radio, mi ricordo, che uno, non arrivando alla fine del mese, se perdeva dei soldi, era malato e dovuto andare a lavorare. Ora io dico, prima di tutto è una proposta la mia, dico, come mai si va a colpire i fannulloni, che ce ne sono d'accordo, sì, e non si va a colpire i capi dei fannulloni, che prendono 4-5 volte lo stipendio dei fannulloni, quelli non si vanno a colpire. E chi sono, i politici? No, proprio i capi. Ah, i dirigenti, dice lei, i dirigenti. Ho fatto la carriera in quel senso lì, avevo una ventina di persone sotto di me e ero responsabile di quello che facevano. Allora era più... No, ma ho capito, lei ha ragione, bisognerebbe più puntare ai dirigenti e meno, diciamo, ai caporali, ai soldati semplici. Conclusione, Carlo? In questa settimana ho visto, è venuto in tournée teatrale in Toscana, Barbareschi. Ah, il caso prende? Barbareschi, un bravo, politico bravo, che fa anche l'attore teatrale. Bravo, Carlo, lei ha ragione, secondo me un politico dovrebbe impegnarsi dalla mattina alla sera in Parlamento a studiare i dossier, a presentare le leggi, non andare in giro a fare tournée teatrali. Ne riparliamo domani, 18:30 La Zanzara, ciao. La Zanzara.